Ciao a tutte, ciao a tutti. Il neoliberismo medioevale. Abbiamo già parlato del neoliberismo fascista, cioè dei caratteri nazisti e fascisti che informano questa società. Ma questa stessa società ha anche caratteristiche medioevali. L'agire sociale tollerato è quello che si esprime per corporazioni, associazioni categoriali spoliticizzate a tutela di interessi specifici di gruppo. Ne sono un esempio le associazioni dei consumatori, ma anche quelle che raggruppano le minoranze sessuali o i comitati e le organizzazioni che dovrebbero salvaguardare, fra virgolette, le donne come genere oppresso. Tutto viene ricondotto ad una generica matrice culturale che dimentica la struttura della società e la divisione in classi. Ognuno a ognuno così finisce per chiedere tutele, visibilità, riconoscibilità e legalizzazione organizzandosi in un gruppo di interesse. I centurioni che accompagnano i turisti al Colosseo, i venditori ambulanti, le sex workers, tutti chiedono albi professionali in cui essere inseriti e riconoscibilità in un gruppo. Vengono così criminalizzate e perseguite tutte le economie marginali e tutti e tutte coloro che non possono essere inquadrati in una categoria o che non vogliono legare la propria vita ad un ambito specifico. Tanto più questa società pretende flessibilità e capacità di adattamento sul lavoro, tanto più ha la pretesa di inquadrare, ghettizzare, definire, rinchiudere in categorie sempre più specifiche. L'attacco portato alle classi subalterne con la precarizzazione delle esistenze e l'abbattimento dello stato sociale ha poi messo le premesse dell'impossibilità di chi appartiene alle classi sociali svantaggiate di uscire dalla propria condizione. Studiare è sempre più oneroso e difficile. I costi dell'università hanno provocato una forte diminuzione delle iscrizioni ed anche quelle e quelli che riescono ad iscriversi e a studiare non sono premiati con quel salto sociale che era possibile anni fa. Ormai la platea dei laureati e delle laureate che finiscono a fare i mestieri di minima, dal cameriere al fattorino, dal centralinista all'addetto alle pulizie, è sempre più vasta. Pochissimi riescono a fare un salto sociale e saranno sempre di meno, perché sono le stesse famiglie a non far studiare più i figli e le figlie. A conferma dell'errore grave di chi negli anni passati si è laureato e laureata in prima generazione e ha attribuito alle proprie capacità e alla propria bravura l'essere passata ad una condizione di vita migliore dei nonni e dei bisnonni, come se questi non fossero stati adatti allo studio per colpa loro, dimenticandosi o facendo finta di dimenticarsi che sono state le lotte di quegli anni ad aprire questa possibilità. I figli sono sempre più, come si diceva una volta, legati alla professione del padre. Ma l'isolamento delle classi subalterne è fisicamente visibile anche nella struttura e nell'organizzazione della città. Le strisce blu dei parcheggi a pagamento che permettono la sosta solo a chi appartiene al quartiere, la chiusura di intere parti di città alla gente comune che ogni mattina arriva nei centri storici solo per lavoro, ricorda la gente del feudo che viene al castello solo per servire. Ma almeno durante il Medioevo il castello era anche rifugio in caso di pericolo e fra il signore e i servi c'era un accordo di servizio ma anche in teoria di tutela. Qui nessuno nessuna si illuda, non c'è nessuna tutela, le porte del castello verranno chiuse e i servi resteranno fuori. Ma non si illudano anche i signori, tra virgolette, nessuno sarà al riparo dalla guerra e dalla devastazione che stanno preparando. Ora il ponte levatoio è stato sostituito da una miriade di telecamere e di sistemi di controllo che permettono o meno l'accesso, che scelgono chi ha diritto di entrare e chi no e che cosa può portare addosso o cosa non può portare. Pagando delle gabelle si può anche ovviare parzialmente alle difficoltà di accesso e comunque si deve chiedere un permesso, sempre che venga concesso. Vi ricordate Benigni e Troisi in un famoso film? Chi siete? Da dove venite? Dove andate? Un fiorino. E proprio a proposito di fiorini c'è la spinta ad abolire il contante, incentivata in ogni modo, con la propaganda alle carte di credito, ai bancomat, con l'obbligo di avere il conto corrente per il versamento dello stipendio e della pensione, che non si può più prendere in contanti, con gli acquisti online fortemente scontati, con la riduzione delle banche a sale di slot machine, insieme alla riduzione drastica del personale e del contatto con il pubblico, con la persecuzione e il controllo di tutto quello che avviene in denaro reale e non virtuale. Chi non ha un minimo di possibilità economiche ed è escluso dal circuito dei cittadini cosiddetti legittimi, già ha cominciato a ricorrere al baratto per il vestiario, per il cibo, in mercatini improvvisati soggetti alla persecuzione delle forze di polizia e dei vigili urbani. Chiaramente la scusa è sempre la stessa: problemi igienici, degrado ambientale e riciclaggio di oggetti rubati. E soprattutto ricordatevi di buttarvi celermente da parte quando passa un corteo di auto istituzionali affini, blindate e oscurate, con i poliziotti o la stradale di scorta e a sirene spiegate. C'è sempre il rischio di una scudisciata di medievale memoria. Ciao!